4 mattino. Che non si parli di limitazioni di età per la terapia intensiva a chi ha più possibilità di sopravvivenza, perché prima gli anziani, meno male che ci sono in Italia, perché hanno la pensione, perché aiutano nella cura dei figli e dei nipoti, e poi li lasciamo magari andare perché hanno meno possibilità. Questa per me è una cosa insopportabile. Buongiorno Spezia. Io sono un imprenditore, un'azienda con 30 dipendenti. Fortunatamente abbiamo lavoro e esportiamo in tutto il mondo. Siamo al minimo per poter lavorare, stiamo lontani, stiamo distanti. Non possiamo chiudere, perché chiudere vorrebbe dire avere delle grosse ripercussioni. Ma abbiamo fatto tutto quello che è possibile. Poi se ci faranno chiudere, lo faremo. Buongiorno, sono Alessandro, un autista di Flixbus. Volevo segnalare qualcosa di veramente strano. Io sono partito questa mattina da Bologna con 0 passeggeri, arriverò a Milano e lì avrò 0 passeggeri. A Milano salirà il mio collega e andremo in Svizzera, Lucerna, poi Zurigo, e anche lì ci saranno 0 passeggeri. Ripartiremo dalla Svizzera con 0 passeggeri per tornare in Italia passando per Milano, il mio collega scenderà e io tornerò a Bologna con 0 passeggeri, quindi farò un viaggio di 1000 km con 0 passeggeri. È una cosa normale? No, non è una cosa normale, è una situazione eccezionale però. E questo lo dobbiamo tenere presente. Come ci diceva l'imprenditore poco fa, diceva: se dovremo chiudere, a un certo punto chiuderemo. È doloroso, è chiaro, non è che stiamo dicendo che sia bello. E però la situazione è quello che è. È una situazione preoccupante, nella quale a rischio, come ci ricordava la nostra ascoltatrice prima, che ringrazio, sono gli anziani, sono in generale le persone più fragili. E quindi a questo bisogna prestare attenzione. Seconda parte di 24 mattino, le 7 e 22 minuti, martedì 10 marzo, all'indomani dunque della decisione dell'esecutivo di estendere questa zona arancione, queste limitazioni a tutta Italia, prima valevoli solamente per la Lombardia e per alcune altre province. Sempre 349-238-6666 è il numero per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, come avete sentito ci fa particolarmente piacere sentirle in queste giornate, anche per darci un po' di calore umano a vicenda, parlarci e dirci un po' come vanno le cose, perché sono giorni oggettivamente non facili. Qua non è che si vuol far scatenare il panico, sono giorni non facili per tutti quanti, carichi di preoccupazione, carichi di tensione, non solamente per voi ma anche per noi che siamo qua dietro un microfono e che quotidianamente dobbiamo raccontare queste cose, dobbiamo farlo con una certa freddezza pur essendo immersi all'interno di tutto questo. Non semplice, fatevelo dire. E dunque eccoci, ci trovate anche in diretta su Facebook, lo sapete, su Instagram, su Twitter. Questa è la parte della trasmissione dedicata alla rassegna stampa. Ci sono anche molte domande tra voi. I bar dunque devono chiudere alle 18 in tutta Italia. Da quel che apprendiamo, se le misure lombarde, per così dire, sono estese a tutta Italia, sì. Qualcun altro mi dice: ma posso portare a spasso il cane se non ci sono assembramenti? Io credo di sì. Io ieri il mio cane l'ho portato al parco. Ho evitato di fare la strada, ho preso la macchina, sono arrivato con la macchina al parco, l'ho scaricato, sono entrato nell'area cani. È chiaramente una testimonianza personale, magari adesso mi sto autodenunciando e arriverà la polizia a mettermi le manette, però quando l'area cani si è affollata troppo, visto che si sta affollando troppo, ho preso e me ne sono andato, molto semplicemente. Che dobbiamo fare? La spesa si può fare, quindi non correte come dei pazzi a riempire i carrelli, a riempire le vostre case. È meglio farla una volta a settimana. Non sempre è facile, ovviamente, però così funziona purtroppo. I viaggi di piacere non si possono fare, dovete avere un'autocertificazione liberamente scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno con la quale dite mi muovo per questo motivo. Se non ce l'avete, non terrorizzatevi, perché le persone che fanno i controlli, i militari, i poliziotti, hanno loro delle copie che potete compilare sul momento e poi ci sarà una verifica successiva. In tutto ciò, appunto, la richiesta è di una massima responsabilità, massima attenzione. Le aperture dei quotidiani. Iniziamo dal Sole 24 Ore, che il cui taglio ovviamente economico, effetto virus e petrolio a picco, borse KO, tutta Italia zona arancione, deficit al 2,9%. Questo è il titolo, con un editoriale del direttore Fabio Tamburini, sul quale arriveremo tra poco. Terapie d'emergenza per l'economia delle imprese. La Stampa: coronavirus, il governo blinda tutta l'Italia. Per la Repubblica: molti giocano con queste parole. Tutti in casa, il titolo della Repubblica. Bloccate tutto, ma davvero, è il titolo del Messaggero. È una lettera del direttore Virman Cusenza che chiede che questa vicenda dell'autocertificazione finisca. Deve essere tutto obbligatorio. Ora è chiusa tutta l'Italia, titola il Corriere della Sera. Si chiude tutto, titola il giornale. E guardate questa foto, ed è la foto di un'infermiera stremata che si addormenta sulla scrivania dopo il turno, dopo l'ennesima notte in reparto senza sosta. Arriva da Cremona quella foto. Totale protezione, il titolo di Avvenire. Tutti a casa, quello del Manifesto. Quelli che dicevano è poco più di un'influenza, il titolo di Libero. Ecco il conte da pagare, quello della Verità. La grande fuga, 20.000 in due giorni, è quello del Fatto Quotidiano, sulla gente che si sposta a sud. Allora, iniziamo. E facciamo una bella cosa, dato che di coronavirus torneremo ovviamente a parlare nella parte centrale della nostra rassegna stampa. Diamo voce ad altre due, tre storie di taglio diverso. Ovviamente sulle pagine dei quotidiani trovate un po' dappertutto il tema di questa visita di Erdogan a Bruxelles. Nulla di risolutivo, con Bruxelles che ha detto al presidente turco non ci fare ricatti, e però insomma, diciamo, c'è quantomeno un'apertura di dialogo. Questo è l'altro elemento, se vogliamo, di giornata. E poi un paio di vicende italiane sulle quali mi voglio soffermare. La prima ha a che fare con una legge molto discussa, quella della Regione Lombardia, che non è la prima che lo fa, lo hanno fatto anche delle amministrazioni comunali. È una legge per privilegiare nell'accesso alle case popolari chi ha più di 5 anni di residenza all'interno della regione. Ebbene, la legge è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Case popolari anche senza la residenza, la Consulta boccia la legge lombarda. Come potrete ben capire, è una questione che ha a che fare soprattutto con gli immigrati. Il pezzo firmato da Andrea Montanari a pagina 20 lo racconta bene, di Repubblica. Negare l'accesso alle case popolari a chi ha meno di 5 anni di residenza è irragionevole. Con questo giudizio, la Corte Costituzionale ha bocciato per incostituzionalità la legge lombarda del 2016, che aveva introdotto questo vincolo per favorire di fatto gli italiani e in particolare i lombardi. Un cavallo di battaglia della Lega, che nel frattempo ha introdotto lo stesso criterio anche in Veneto, con la riforma approvata un anno fa che premia nell'accesso chi ha la residenza da 5 anni, anche non consecutivi. Le norme erano già finite nel mirino della Consulta, che ieri ha stabilito che il requisito della residenza protratta per più di 5 anni ai fini della concessione dell'alloggio non è sorretto da un'adeguata giustificazione sul piano costituzionale. Il ricorso era stato presentato da un cittadino tunisino tramite l'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e appunto aveva fatto ricorso al Tribunale di Milano, il quale aveva posto la questione di costituzionalità alla Consulta, e dunque la Consulta dà torto alla Regione Lombardia. I 5 anni di residenza per ottenere un alloggio popolare, insomma, non vanno bene. L'altra storia italiana sulla quale vi voglio portare è, insomma, perché noi siamo qua, giustamente ci occupiamo del coronavirus, molto di Covid-19, di quello che succede, e però ci sono altre questioni italiane che rimangono sospese. Pensate solamente a quella dei viadotti, sulla quale in questo momento stiamo, ovviamente siamo un po' sospesi, per così dire, scusate se insomma può sembrare un riferimento al viadotto, ai viadotti stessi. Rimaniamo sospesi un po' perché le strade sono semivuote, ma anche perché si parla soprattutto di questo. Ci torna però il Fatto Quotidiano a pagina 17 con Vincenzo Iurillo, il quale ci porta su tre viadotti in provincia di Avellino che insomma sono sotto esame della magistratura e sono gestiti da Autostrade per l'Italia, e ci porta, è chiaro che in radio non ve le posso far vedere, però vi posso assicurare che fanno una discreta impressione. Ci porta là con delle foto. Avellino, le foto esclusive dei tre viadotti in rovina. Il pezzo di Vincenzo Iurillo parla delle lunghe crepe, dei piloni lesionati, delle fuoriuscite dei ferri d'armatura, ossidazione delle parti in acciaio, staffe rotte, travi ammalorate, il tutto testimoniato appunto dalle immagini, immagini di infrastrutture che cadono a pezzi per mancata manutenzione. Sono appunto tre viadotti gestiti da Autostrade per l'Italia e finiti nei giorni scorsi nei provvedimenti di sequestro della magistratura di Avellino. Non c'è bisogno di aggiungere altro, si trovano in un tratto della provincia di Benevento, lungo la A16, la Napoli, Canosa, Serra dei Lupi, Flumeri, Agrifoglio sono i nomi dei tre viadotti. Il GIP Fabrizio Ciccone ha disposto il sequestro delle barriere bordo ponte, la chiusura al traffico delle corsie di marcia contigue al margine dei New Jersey, i limiti di velocità di 40 km/h per i mezzi pesanti e di 60 per quelli leggeri, a testimonianza di un problema ancora da risolvere. Una pausa e poi veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa. Mattino. Sono un medico, sono in macchina, sto andando a lavorare in ospedale come tutte le mattine alle 6 in provincia di Bergamo. State a casa, state a casa. È impossibile vedere quello che noi vediamo in questi giorni. Noi turni 6, 18, 18, 20, 28, in continuo, e la gente che negli stessi orari può andare al bar. Anche ieri sera non ho sentito una parola da parte del nostro illustrissimo Presidente del Consiglio relativamente al fatto di, due punti aperte virgolette, state a casa, non muovetevi per X mesi, i mutui saranno annullati, saranno sospesi, non si pagheranno bollette e quant'altro. Cioè, non una parola sul lavoro e sulla tranquillità delle famiglie che, stando a casa da lavoro, non ci rimetteranno soldi. Due temi distinti, ovviamente la signora che fa il medico, e che ringraziamo come tutti gli operatori sanitari, lo facciamo quotidianamente per il lavoro che stanno, per il super lavoro che stanno facendo, testimonianza ne sia quella foto che un po' trovate su tutti i giornali e che ha girato molto, di quella infermiera, se non vado errato, di Cremona, addormentata sulla tastiera a fine turno. Stare a casa, sì, è questo. Ovviamente con tutta una serie di altri elementi che ci sono dentro. Sì, si può andare a fare la spesa, come dicevamo. Sì, si può portare fuori il cane, certamente. Il tema è evitare gli assembramenti di persone che non siano familiari, persone con le quali vivi in casa, insomma, quelli con i quali vivi in casa, che puoi fare. Ci sei assembrato normalmente, chiaro. Però evitare tutto questo, evitare i luoghi affollati o il rischio che si affollino questi luoghi, e questo bisogna fare. Sull'altro fronte io devo dire una cosa, qua c'è un enorme difetto di comunicazione, lo vedo dai messaggi che ci state mandando, un enorme difetto di comunicazione, ma io dico, ma nell'epoca nella quale siamo tutti connessi, ma cosa ci metti ad attivare un account WhatsApp Business, un account Messenger su Facebook, una pagina Facebook apposita? Tutto quello che vuoi, Twitter, mettici quello che ti pare, del governo istituzionale nel quale io posso fare le domande e tu mi rispondi. Così ho là un po' di chiarezza. Posso uscire col cane? Sì, puoi uscire col cane, evita gli assembramenti. Ma non lo deve dire Radio 24, lo deve dire chi ha firmato questo decreto. Scusate. E poi è vero che ci sono i numeri verdi regionali e c'è il numero del Ministero della Salute, per carità, però siamo qua, siamo tutti qua, ci state mandando quintali di messaggi su WhatsApp. Devi andare dove è la gente, e la gente è sui social, è su WhatsApp, ha questo utilizzo degli strumenti tecnologici, no? Magari sbaglio, però io su queste cose mi scaldo, perché il tema della comunicazione è fondamentale. In tutta questa crisi da coronavirus la comunicazione è stata gestita malissimo fin dall'inizio, complessivamente, da tutti, nessuno escluso. L'ha gestita male il governo, l'hanno gestita male le regioni, tutti, di tutti i colori politici. Ora è il momento di riprendere un po' in mano le cose e mettere a regime tutto quanto. Lo si faccia, per gentilezza. Allora, veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, che naturalmente è dedicata a tutto questo, dedicata al coronavirus. Suddividerò, per così dire, così diamo un po' di ordine in questa situazione, in cinque capitoli. Il tema degli spostamenti, gli spostamenti verso sud, il tema delle carceri, il tema più strettamente sanitario, il tema di come si stanno muovendo all'estero e infine, ma non ultima, la questione economica. Dunque iniziamo con questa fuga, anche qua si è molto parlato del tema della responsabilità personale delle persone. Ebbene, è oggettivamente poco responsabile quello che abbiamo visto avvenire nelle ultime ore. Questo esodo da nord verso sud, che ha di fatto costretto il governo a estendere la zona arancione a tutto il resto d'Italia. Tenete presente che poi ne parleremo con Maria Latella alle 8:20, avremo ospiti Nello Musumeci, il presidente della regione siciliana, e Michele Emiliano, quello della regione Puglia, anche per capire come si stanno muovendo. Fatto Quotidiano, pagina 4, un maxi esodo di oltre 15.000 persone, racconta Natascia Ronchetti, e questi sono solo i numeri relativi a coloro che si sono autodenunciati dopo essere rientrati nelle regioni del sud, senza contare i 3.900 che si sono rifugiati in Liguria. Una grande fuga da quando sono iniziati a trapelare le informazioni sul decreto del premier Giuseppe Conte, in pullman, in treno, in aereo, per raggiungere Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, anche la Basilicata, che è quella che finora ha registrato meno rientri, 204. In altre regioni del meridione si parla di migliaia di casi. Tenete presente che solamente in Sicilia, per segnalare la provenienza dalle zone rosse del nord Italia, si è passati in un batter d'occhio da 1.500 a 11.000 registrazioni. In buona parte su questa impressionante impennata ha agito la decisione del governatore Musumeci di trasformare l'autodenuncia da facoltà in obbligo. E poi ci sono stati gli appelli rivolti ovviamente ai siciliani e ritornati nelle loro case. Questo sicuramente ha sortito degli effetti. Ma ci sono altre regioni dalle quali i dati non ci sono. Pensate solamente alla Calabria, che ha un buco nero tra sabato e domenica, racconta Natascia Ronchetti, e quindi non si sa esattamente quanti siano i calabresi rientrati dal nord giù. Per il momento sono 2.000, ma non si sa quanti si registreranno nelle prossime ore. Scrive sempre sul Fatto Quotidiano Laura Margottini, il tema dei controlli, c'è un tema privacy versus salute, c'è chi propone di tracciare gli spostamenti. In Cina e in Corea questa cosa sostanzialmente la fanno già. C'è tutta la questione dell'autocertificazione negli spostamenti. Il Messaggero ci va giù molto duro, c'è un editoriale del direttore Virman Cusenza, una lettera di fatto al presidente del Consiglio Conte, nella quale dice insomma che questa cosa va resa, l'autocertificazione è uno strumento troppo fragile, questa è la sostanza dell'editoriale di Cusenza. E il pezzo all'interno del Messaggero ci parla del quello che definisce il caso: viaggi necessari? Fioccano le scuse, così si superano i posti di blocco. Devo assistere la nonna e via, si passa oltre. verso Roma o verso il sud. Basta avere in tasca l'autocertificazione scaricabile sul web e si passano i controlli dalle zone arancioni dichiarate domenica notte. La Lombardia e altre 14 province del nord. Anzi, non serve nemmeno stampare il modulo del Ministero dell'Interno e portarselo dietro, dopo averlo compilato appena. Possono essere gli uomini delle forze dell'ordine. Così ha disposto il Viminale a fornire l'attestato da far redigere sul momento a chi è stato fermato in auto ed è sceso dal treno. Le autocertificazioni? Nel momento del controllo possiamo intervenire solo se si ravvisano palesi incongruenze, altrimenti è tutto demandato a verifiche successive, spiega Stefano Paoloni, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Ora, come capite, quello che dicevamo prima, questa questione ci richiama tutti al tema della responsabilità personale. Insomma, quindi, se c'è l'autocertificazione, dobbiamo essere noi ad essere responsabili, cosa che pare non sia avvenuta evidentemente quando ci sono state, e qua piccolo elemento di politica, alle suppletive in Umbria, perché ci sono state le suppletive in Umbria, le suppletive per il Senato, ce lo racconta a pagina 5 Avvenire, con la vittoria di Maria Elisabetta. Con la vittoria del Carroccio, con Valeria Alessandrini che ha battuto Maria Elisabetta Mascio del centro-sinistra. Ebbene, la cosa che ha fatto discutere, perché nelle foto diffuse sui social si vede per festeggiare un assembramento di persone, circa 60, nonostante il divieto imposto dal decreto governativo contro il coronavirus. Come capite, anche queste situazioni, in particolare da parte di un politico, devono essere controllate. Il traffico e poi le carceri e tutto il resto. Mattino. E dunque, eccoci di nuovo, ascoltatori, ancora là il tema, ascoltatori disperati che ci scrivono. Un'ascoltatrice dice: sono un'operaia, che cosa faccio? Devo andare al lavoro, non devo andare al lavoro, come funziona? Sì, sì, si può andare al lavoro, si può andare al lavoro. Ma vedete, ancora ci sono alcune cose che non sono ancora chiare, e su questo sarebbe bene appunto dare degli elementi di chiarezza. Noi lo facciamo qua per quanto possiamo, però insomma sarebbe bene che le istituzioni se ne occupassero un po' più capillarmente, in tutta sincerità. Allora, il tema delle carceri. Dunque, Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 11. Sovraffollamento in celle, detenuto in astinenza. Così esplode lo stress. C'è una bellissima mappa sulla Stampa delle rivolte carcerarie. Dove sono state? San Vittore, Bergamo, Alessandria, Parma, Modena, Verona, Ascoli, Pescara, Frosinone, Roma, Napoli. Con un quadro preciso di quello che è successo, con un racconto, quello di Grignetti, dice chi se ne intende che il carcere vive di un sottile equilibrio, un bel eufemismo per dire che in cella si regge allo stress della detenzione, alla mancanza di droghe, alle malattie che dilagano, tenete presente che un terzo dei detenuti è tossicodipendente, alla depressione, il tutto aggravato dal sovraffollamento solo perché il detenuto in generale si arrangia, ma quando nella vita quotidiana del carcere irrompe il coronavirus e vengono ridotti al minimo i contatti con l'esterno, ecco che questo equilibrio va in frantumi. E se si interrompe il flusso dall'esterno, ne va per quello che è, il problema è per quello che è autorizzato, ma soprattutto per quello che non lo è. Un conto infatti è impedire l'arrivo della pasta al forno, della bistecca aggiuntiva, altro è bloccare l'ingresso delle droghe sintetiche o dei cellulari che entrano di straforo. Il tema è questo, ma non è solamente questo, come ci spiega Roberto Galullo sul Sole 24 Ore a pagina 11, nel quale dice: se c'è una falsa ragione per la quale è scoppiata la rivolta nelle carceri italiane, ebbene quella è proprio il blocco dei colloqui tra i detenuti e i loro familiari e avvocati. Da una parte c'è la richiesta di indulto, ne abbiamo parlato poco fa. L'altra spinta è quella della rete delinquenziale che ha nel carcere un motore, una scuola di vita, oltre che di, parlando con la Costituzione alla mano, recupero. Svuotare le carceri dei soliti noti assicura un ricambio di pezzi originali da mettere nel circuito criminale di bassa lega o talvolta di alto potenziale. Un altro motivo per il quale esiste una filiera abilmente manovrata è quello che porta dritti dritti al comando criminale all'interno delle carceri. Una rivolta, qualunque essa sia, è il momento giusto per far vedere a tutti chi comanda davvero le dinamiche delinquenziali e criminali interne, ma può anche rappresentare il momento più opportuno per scardinare le vecchie gerarchie, imporne di nuove, benedire nuove alleanze interne o regolare conti tra opposte fazioni. Così Roberto Galullo, dunque, sul Sole 24 Ore a pagina 11. C'è la questione sanitaria, come si diceva, qua andiamo sulla Repubblica, pagina 6, anche per smentire un audio WhatsApp che sta girando da alcune ore e che ha gettato un po' di gente nel panico, un file audio che parlava di ventenni intubati attribuito a sanitari del Niguarda di Milano, che racconta Zita Dazzi a pagina 6 della Repubblica, appunto, che è una menzogna e una porcheria inqualificabile, per usare le parole del professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, che in questi giorni sta prendendo in carico pazienti della sanità pubblica per alleggerire il carico degli ospedali al centro dell'epidemia. Noi abbiamo 27 persone in terapia intensiva, 6 sono guariti, ce n'è uno di 18, ma uno, e capita anche in periodi normali che un giovane possa ammalarsi di polmonite. Il titolo è "Quei giovani pochi in terapia intensiva, qualcuno è grave ma niente, psicosi", e quindi l'attenzione che si sposta anche ovviamente sui ragazzi. Ci si sofferma anche il Fatto Quotidiano a pagina 8, il 35% delle persone ricoverate in terapia intensiva, racconta Marco Pasciuti intervistando Cristina Mascheroni, presidente regionale dell'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, dice il 35% delle persone ricoverate in terapia intensiva a meno di 65 anni, persone tra i 50 e i 64, persone in forma che non hanno un fisico debilitato ma che a causa del coronavirus, dei problemi polmonari che provoca, vanno intubati. 8 su 100 hanno tra i 25 e i 49 anni. Questo a segnalare che il fronte di attenzione è, per così dire, più largo, no? Finora abbiamo raccontato solamente degli anziani e delle persone già debilitate che sono quelle più a rischio, e però ci sono problemi anche per chi è più giovane e sta bene. Vi voglio segnalare molto rapidamente pagina 16 della Repubblica sul tema di Parigi e della Germania. Niente panico, Parigi, niente panico, il governo evita le misure drastiche. Il pezzo è di Anaïs Ginori. Si racconta che la Francia è il paese più colpito in Europa dal coronavirus dopo l'Italia. L'ultimo conteggio è di 25 vittime, oltre 1200 contagiati. Anche il ministro della cultura è in quarantena con pochi sintomi. E dall'altra parte, con Tonia Mastrobuoni, la preoccupazione di Berlino per l'età invece della Germania, per l'età dei contagiati, in media 40 anni. Sono quasi 1200 i casi di coronavirus anche qua scoperti in Germania e 2 i morti. Una donna 89enne che soffriva già di patologie gravi e un 78enne già malato anche lui, proveniente dal circondario di Heisenberg, la famosa città dove a metà febbraio si è svolta una festa di carnevale che ha fatto da detonatore all'epidemia in tutta la regione Nord Reno-Vestfalia, una giusta segnalazione che ci dice appunto come sia il problema. Segnalo anche un bel pezzo di Stefano Carrer a pagina 20 del Sole 24 Ore sulla Corea e la frenata dei contagi grazie alla risposta dei cittadini. Se volete ricostruire il caso coreano è sicuramente il pezzo perfetto. Ci racconta di alcuni elementi come i tamponi fatti per strada, le applicazioni come Corona Map o Corona 100 Meters che consentono di individuare i luoghi a maggiore rischio in quanto visitati da persone infette, e un paese che è stato lodato per questo anche dall'OMS. E poi il Sole 24 Ore in generale sul tema dei mercati, e qua c'è la grande questione, petrolio e virus, il panico in borsa, shock sul debito delle aziende, il pezzo è di Moria Longo, sulla Caporetto finanziaria di ieri con il FTSE MIB che ha perso l'11%, ha perso il 21% dall'inizio dell'anno, Madrid il 7,9%, Parigi il 7,8%, l'America il 7,7%, Londra altrettanto il 7%, insomma i ribassi sono tutti di queste dimensioni. Moria Longo lo spiega bene, è nata come una crisi sanitaria, è diventata subito un'emergenza economica. Sole 24 Ore che presenta anche un editoriale del direttore Fabio Tamburini che chiede terapie d'emergenza per l'economia delle imprese e ricorda che È una crisi molto diversa da quelle che hanno messo a dura prova il mondo, quella del terrorismo, quella di Lehman Brothers. La grande diversità è dovuta al fatto che il dilagare del coronavirus sta attaccando il cuore del sistema, della sua struttura, mettendo sotto scacco l'economia reale, quindi non solamente la finanza. Dunque servono, conclude Tamburini, interventi straordinari con procedure straordinarie, senza se e senza ma. Il GR ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo con i presidenti delle regioni del sud, Emiliano e Musumeci, e poi proprio a proposito di borsa avremo Ierusalmi, l'amministratore delegato di Borsa Italiana. A tra poco.